Il senso di questo festival è di tornare a costruire delle iniziative a bassa velocità perché vogliamo proprio andare contro questo sistema delle grandi opere che in Val Susa conosciamo benissimo tramite il treno ad alta velocità, questa grande opera inutile e dannosa che da 25 anni i vari governi italiani stanno cercando di propinarci. Di conseguenza abbiamo deciso di costruire questa iniziativa poiché proprio in quei 4 giorni fermeremo insieme il tempo e il consumo. È all'interno appunto di tutta l'area del festival da Venaus, quindi anche tutto il paese si potrà girare solamente a piedi. Di conseguenza proveremo in quei 4 giorni a costruire un modo di stare insieme completamente differente, distante dalle logiche del consumo e della strumentalizzazione dello sfruttamento. Di conseguenza saranno 4 giorni all'insegna della bassa velocità, dove ci sarà modalità di poter campeggiare liberamente, si potrà stare insieme, ci saranno i concerti, i dibattiti, tutte le iniziative saranno interamente libere e gratuite. Come l'anno scorso ci saranno oltre centinaia di artisti, quest'anno saranno tantissimi, suddivisi su 3 palchi diversi, in modo tale da poter arrivare a tutti i cuori, a tutte le varie anime che arriveranno al festival di quest'anno. Tra i luoghi della Val di Susa, Venaus è un luogo anche simbolico. Assolutamente, il Venaus è diciamo il cuore della lotta, è stato il cuore della lotta, poiché nel 2005, proprio sull'area in cui quest'anno e l'anno scorso abbiamo fatto il festival, nel 2005 l'8 dicembre arrivarono 50.000 persone da tutta Italia a in qualche modo bloccare quello che voleva essere il primo cantiere TAV. Di conseguenza da quel momento in poi quella porzione di territorio ha preso il nome proprio di Borgata 8 dicembre, quindi per noi quel movimento, fare il festival proprio in quell'area lì, è proprio un modo per dimostrare che è un altro modo di poter vivere il territorio, è assolutamente possibile. Guardando i nomi dei gruppi che suoneranno durante quei giorni si vede, come dire, il meglio della produzione italiana, dallo Stato Sociale agli Africa Unite, Ozulu, sì, ce ne sono, esatto, tantissimi, Clementino, Mamma Maria, Clementino, i Claver Gold, Roy Pace, Retusca, i Mau Mau. Sì, quest'anno c'è un grande avvicinamento di tutti quei gruppi italiani che possono, la storia delle nostre vite, mettiamola così, nel senso che sono tutti gruppi che, voglio dire, sono molto conosciuti sul nostro territorio nazionale. Quest'anno sono tantissimi di più rispetto all'anno scorso, adesso quelli che sono stati pubblicati sono diciamo un terzo degli artisti che saranno presenti nelle prossime settimane. Da qua al festival ci saranno un sacco di altre sorprese che non andiamo ancora a svelarvi, ma nei prossimi giorni, andando sul sito che ricordo essere www.altafelicita.org, e potrete trovare appunto tutte le altre sorprese. Comincio già ad anticiparvi, faccio un po' di anticipazioni: ci sarà anche Stefano Benni che presenterà un suo libro, ci sarà Luca Mercalli insieme ad altri personaggi illustri che parleranno di TAV, parleranno di appunto territorio e tutela del territorio. Ci saranno anche i Wuming. Ci saranno ovviamente anche i Wuming, che in momenti diversi ci accompagneranno al festival, poiché come l'anno scorso anche quest'anno i Wuming saranno presenti all'interno di alcune delle gite, perché un altro, diciamo, parte fondamentale del festival sono proprio le gite nei vari luoghi storici della Val di Susa. In una di queste, in un paio di queste gite, ci saranno anche i Wuming che faranno delle letture e racconteranno un po' di storia del movimento e della Val. Una delle gite che quest'anno viene ripetuta è proprio la gita, quella che abbiamo chiamato visita guidata al mostro, quindi si andrà al cantiere per poter far sì che tutte le persone che arrivano da fuori possano vedere che cos'è lo scempio che questo cantiere ha costruito. E altra invece novità di quest'anno delle gite è proprio la gita ai vari presidi del movimento. Si farà proprio una gita tra i vari paesi, si andranno a vedere i vari presidi, si andranno a conoscere quelle che sono gli aneddoti dei vari presidi e le loro differenze. E ad ogni sosta si potranno gustare dei cibi tipici, delle bevande tipiche della Val Susa. Com'è possibile realizzare un festival così grande, anche economicamente? Quest'anno la cosa incredibile è che a dare motore a tutta l'organizzazione è stata tutta la valle intera. Quindi abbiamo cominciato con un anticipo estremo, siamo partiti a settembre dell'anno scorso a cominciare a riunirci proprio esclusivamente solo per il festival. E di conseguenza, come dire, ci sono più o meno 80 persone che che mensilmente si incontrano e settimanalmente si vedono e fanno riunioni e discutono su tutto il da farsi. Economicamente certamente è una spesa molto, molto ampia, l'anno scorso è andata molto bene, di conseguenza pensiamo e speriamo che anche quest'anno possa ripetersi nello stesso modo. Quest'anno abbiamo deciso di aprire anche una campagna di raccolta fondi in modo tale che chiunque possa in qualche modo aiutare, perché il movimento NoTav è tutto fondato sulla donazione e la partecipazione attiva delle persone, e di conseguenza sempre sul sito altavelocita.org c'è una fantastica pagina dedicata che si chiama Cosa puoi fare tu, che in qualche modo dà due indicazioni di senso: da una parte per la raccolta fondi, dall'altra parte invece per tutte quelle persone che vogliono venire su e appunto aiutare in maniera attiva, ecco, perché pensiamo che la partecipazione del pubblico non debba essere quella di un semplice spettatore, ma che invece possa essere proprio parte attiva, poiché il movimento NoTav sa che dopo 25 anni di lotta è riuscito a costruire una comunità proprio su quella lotta, e questa comunità è una comunità che è completamente attiva e quindi si mette completamente a disposizione di quello che c'è da fare. Rinnoviamo l'invito a tutti quanti di andare sul sito e di iscriversi, compilare questo form e di iscriversi alla CIURM e in quei giorni di essere appunto parte attiva, perché pensiamo che questa sia la grande differenza che il Festival dell'Alta Felicità può in qualche modo dare rispetto a tanti altri festival